1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E siamo qui, sono le 7:18 minuti, eccoci cari debosciati d'Italia, andate a produrre come dico sempre con lo schema Allegri ben inserito, dai, dai! Oggi di cosa parleremo? Parleremo intanto con Antonio Verro del CDA della RAI alle 8:15, un po' di Sanremo, e poi cercheremo di capire cosa sta succedendo in Ucraina. Europa, alle porte dell'Europa, dove ci sono almeno 100 morti, ma di più probabilmente, e dove c'è una vera e propria guerra civile. Ci collegheremo con l'Ucraina per cercare di raccontare quello che sta succedendo in questo paese, che prepotentemente è finito nelle prime pagine dei giornali a partire da oggi, e giornali che andiamo appunto a sfogliare. In questo venerdì 21 febbraio i titoli, il Sole 24 Ore, mobilità per gli statali nella spending review. È un titolo molto interessante che riguarda tutti i dipendenti pubblici, sono anticipazioni del rapporto Cottarelli che vedremo tra poco. Il Corriere della Sera mette forti tensioni, si cerca l'intesa e dunque l'apertura sulla politica ma anche sull'Ucraina. Le barricate e il massacro, così si muore per l'Europa in una piazza di Kiev. Anche per Repubblica, Kiev, per Repubblica Kiev brucia, è guerra civile, il titolo di apertura. La questione politica invece, il governo non c'è ancora ma già si dividono la torta, così apre il Fatto Quotidiano. Per il Messaggero, Renzi pronta la squadra ma Alfano vuole un patto. Anche La Stampa, Renzi Alfano braccio di ferro ma si tratta. Sull'Ucraina invece aprono il massacro di Kiev sul secolo XIX, macerie d'Europa, la foto terribile del manifesto con una persona chissà se ferita o se morta trascinata via in una barella improvvisata dalla piazza principale della capitale ucraina. Avvenire, Kiev sangue sulle barricate, questa è l'apertura. Mentre per Libero, il governo non è nato ma sta già poco bene, questo è il titolo di apertura. Il Giornale, sminati Alfano e company, e l'Unità, governo Renzi l'ultima sfida. Come vedete sono due le notizie, la politica con la formazione del governo Renzi e l'Ucraina. Queste le notizie sulle prime pagine dei giornali. Io voglio partire però da questa storia che abbiamo sentito anche nel giornale radio. Una storia terribile che riguarda una persona che si è tolta la vita, Edoardo De Falco, panettiere. Si è tolto la vita perché aveva ricevuto una multa dagli ispettori del lavoro che si sono presentati nel suo panificio, hanno trovato la moglie che lo aiutava e la moglie non aveva un regolare contratto. Per carità, le regole giuste da rispettare, non l'aveva assunta, era lì, era sua moglie a dargli una mano. E quindi ha ricevuto una multa da 2.000 euro da pagare subito e altri 10.000 o qualcuno dice 9.000 da pagare entro la fine del mese prossimo. E ha iniziato a dire come faccio, aveva 3 figli, non riesco a pagare questi soldi, non aveva assunto la moglie, pizzaiolo si uccide per la multa. Pagina 20 del Corriere della Sera, ma anche una pagina sul giornale che mette questa storia in prima pagina, rabbia e dolore per Eddie, panettiere morto di burocrazia. Scrive sul Corriere Giusy Fasano, e sono a pagina 20, gli ho pregati in ginocchio con le lacrime agli occhi, non è servito a niente. Ora, così ricorda Lucia, la moglie, che ha implorato gli ispettori del lavoro sperando che la sua disperazione valesse più di quel verbale. Non potete farci questo, vi prego. Anche suo marito Edoardo ha provato a spiegare, io non sto sfruttando nessuno, è mia moglie, è qui ad aiutarmi. Solo che lei non aveva un contratto regolare di lavoro, non aveva titolo per stare dietro al bancone della pizzeria panificio di Casalnuovo in provincia di Napoli. Quindi hanno vinto le regole. Una sanzione da 2.000 euro da pagare entro oggi e altri 10.000, qualcuno sostiene 9, da versare entro la fine del mese. Altrimenti inevitabile prima la chiusura del locale e poi il procedimento penale. Raccontano gli amici e i commercianti vicini che quando gli ispettori se ne sono andati, e parliamo di mercoledì, lui e Eduardo era in preda a singhiozzi inconsolabili. Come facciamo adesso? Dove vado a prenderli tutti quei soldi? Che darò da mangiare ai miei figli? Alla fine, in qualche modo, bussando a mille porte, gli aveva anche trovati 20 pezzi da 100 euro che avrebbero evitato la chiusura immediata nel negozio. Ma la forza di andare avanti, quella no, l'aveva perduta per sempre. Così ieri mattina alle 5 è uscito di casa come faceva ogni giorno, ma stavolta non è andato a impastare pane e pizza per i primi clienti, non ha spostato nemmeno di un metro l'utilitaria parcheggiata sotto la casa, ha sigillato invece i finestrini, ha collegato un tubo tra lo scarico e l'abitacolo e si è chiuso dentro a respirare quel veleno finché il suo cuore ha smesso di battere. 43 anni, 3 figli, Eduardo De Falco. Una vita spesa, racconta il Corriere, a svegliarsi all'alba e tornare a casa alle 10 di sera con la sua Speedy Pizza, che dal 1994 era il primo forno elettrico del paese, un successo. Ovviamente quel periodo era rimasto un vago ricordo, la crisi, insomma, storie che sappiamo e abbiamo raccontato e raccontiamo quotidianamente purtroppo in questa Italia da tempo, e poi questo finale tragico. Ora, per carità, si dirà, le regole è giusto rispettarle, ma per una multa da 2.000 euro poi saldata, ma questi 9 o 10 mila euro da recuperare entro la fine del mese pena la chiusura, davvero sono stati troppo. Ognuno poi tragga il giudizio che crede. Io voglio fare un salto sul secolo XIX, dove il ricordo, essendo venerdì come sempre sul mio profilo Twitter Alino Milan, lo ricordo e tengo la scansione, siamo alla 42esima settimana decisiva di questa legislatura per l'abolizione delle province, nonché per la riforma elettorale. Ebbene, questa è la classica notizia, cari ascoltatori, che vi fa tenere le mani ben strette sul volante se siete alla guida, e appoggiate come al solito tazzine di caffè bollenti se siete a casa a far colazione, perché guardate che scrive in prima pagina al secolo XIX: Genova, il TAR fa risorgere la provincia. Sappiate che c'è sempre un TAR in Italia, sempre un TAR, sempre un Consiglio di Stato. Il TAR della Liguria ha annullato il decreto di scioglimento del Consiglio Provinciale di Genova e il conseguente decreto prefettizio di nomina dell'attuale commissario straordinario Piero Fossati. La sentenza ha come conseguenza la decadenza del commissario, dei subcommissari, ma soprattutto c'è la possibilità che a questo punto si ritorni a votare in primavera per la provincia di Genova. Cioè anche quelle che erano riuscite con un provvedimento, per che la verità poi giudicato incostituzionale, e per questo il TAR ha accolto un ricorso, a eliminare alcune province, tipo quella di Genova appunto, con il commissario, il TAR ha accolto il ricorso di Angelo Spanò e dell'avvocato che l'ho assistito, Daniele Granara. Angelo Spanò, ex consigliere dei Verdi della provincia. La procedura per far sciogliere la provincia è stata basata su un decreto poi ritenuto incostituzionale, governo Monti, e quindi il TAR ha accolto il ricorso e quindi decade il commissario della provincia di Genova e quindi forse rinasce la provincia di Genova. Non è che non riescono ad abolirle, rinascono pure come funghi, come le arabe fenici, ma insomma, eccolo qui, il TAR stoppa Fossati, che è il commissario, e congela la provincia. Roberto Sculli racconta tutti i dettagli sul secolo XIX, pagina 15. L'incarico è irregolare, si rischia di votare in primavera. E voilà! Non riescono a seppellirle, non riescono a sopprimerle, e quando ce la fanno rinascono, perché c'è sempre, ricordate, sempre un TAR che vi potrà annullare anche la colazione che state facendo. Capito? Andiamo in pubblicità e ripartiamo con la politica e la formazione del governo Renzi. Avete sentito? 24 ore e sarà tutto chiaro. E tra poco ripartiamo da qui. Impareggiabile Milan, sono Actarus, Goldrake, principe del pianeta Flit. Ma quando sono sulla Terra sento sempre la sua rassegna stampa. No, vabbè, ma grande Romano Malaspina, il doppiatore di Goldrake, ma voi vi rendete conto? Ma come si fa ad abbracciarlo tramite la radio? Che l'abbraccio arrivi a Goldrake attraverso il microfono. Vabbè, siamo qui a continuare a leggere i giornali. Grande Actarus. Allora, mamma mia, mi sono ripiombato nell'infanzia. Che bei tempi. Allora, la formazione del governo, il governo Renzi. Il duello principale è Renzi-Alfano. Ed è, cari italiani, la cosa più semplice. Poi vi diranno che è una questione di programma, di linee programmatiche. Le poltrone. La spartizione delle poltrone, non c'è nient'altro di spiegabile, cioè è una questione di caselle. Alfano è ministro dell'interno, vorrebbe forse rimanere ministro dell'interno, che è un ministero importante. Renzi infatti continua a dire i suoi: io non sono Letta, non voglio fare il Letta, dobbiamo dare un segnale di discontinuità, e quindi da due giorni va in giro a dire no, Alfano non può stare al ministero dell'interno. Sono poltrone, questioni di poltrone, banali poltrone. Renzi Alfano è braccio di ferro, così titolo Il Sole 24 Ore, pagina 11. Niente accordo su Viminale e riforme, continua la trattativa, così Emilia Patta racconta, nonostante Matteo Renzi dica è questione di poche ore e chiudiamo. Lasciando ieri la sede del PD a Largo del Nazareno, Renzi si mostra fiducioso, sicuro di chiudere, nonostante i nodi aperti, il braccio di ferro in corso con Angelino Alfano sul Viminale. E quello che si sa è che il Premier poi, dopo la formazione del governo, forse secondo alcuni vorrebbe già farla oggi in serata, se no domani, dipende appunto da quando si chiuderanno questi nodi sulle poltrone. Poi pronuncerà il suo discorso programmatico in Senato a partire dalle 14 di lunedì, poi andrà alla Camera martedì mattina. Questo dovrebbe essere, se tutto viene rispettato, la tempistica della formazione del nuovo governo. Beh, se volete trovate Matteo Renzi tutte le salse, fa le foto, fa i selfie, stringe di mano, ha stretto una mano a un automobilista mentre camminava, ha fatto il segno yeah col pollice a una persona che stava raccogliendo i rifiuti a Roma, saluta le persone, saluta l'americana, insomma è così, è un Renzi che sta vivendo anche il suo momento di grande celebrità. Secondo Francesco Verderami c'è stato il difficile confronto nella notte tra Renzi e Alfano, primo passo per cercare l'intesa, nulla era scontato, scrive Verderami, tranne la volontà di arrivare a un compromesso, ma certo ieri non potevano bastare dagli scarni SMS tra Matteo e Angelino per colmare il buco che rischiava di far precipitare la crisi. Il colloquio è andato abbastanza bene, ma non è ancora risolutivo, ed è in questo clima di tensione e sospetti che si è dipanata la giornata, ogni dettaglio alimentato reciproche diffidenze, perché Del Rio al tavolo del programma, quando i centristi hanno chiesto garanzie sulla legge elettorale, ha scartato dicendo che non è questa la sede per discuterne. E perché dalla sede del PD, in testa il portavoce della segreteria Guerini, per tutto il giorno sono rimbalzate sui siti agenzie voci sull'assenza prima di Alfano, poi di Lupi dalla lista dei ministri? Sono domande, io lo so, imprescindibili, che anche voi avete nella vostra testa questa mattina. Di questo parlerete certamente, del toto ministri, di chi sale, di chi scende, del fatto che al ministro dell'economia c'è questo duello che ormai si ripete da giorni, e cioè Renzi vorrebbe Del Rio, mentre salgono però più i tecnici Padoan, presidente dell'Istat, e Tabellini come ex rettore della Bocconi, e come possibili ministri più tecnici. Sono certo che siano queste le domande, oppure Nicola Gratteri, PM di Reggio Calabria, grande uomo che combatte l'Ndrangheta da anni insieme ai suoi colleghi, ovviamente, che è dato per sempre più crescente, certamente sondato personalmente da Matteo Renzi come ministro possibile alla giustizia. Sta di fatto che queste sono le domande che vi ponete, io lo so certamente, di fronte alla vostra brioche, il duello insomma tra Renzi e Alfano per la questione delle poltrone. Per Goffredo De Marchis su Repubblica, il retroscena lo trovate a pagina 1 e continua poi a pagina 7, pare che il faccia a faccia sia abbastanza brutale tra Renzi e Alfano. Sappi che ora non tratto più. Renzi avrebbe addirittura messo in campo la possibilità delle elezioni. Ci sono varie alternative se si sfida Alfano, una delle quali sono le elezioni. Conviene davvero al nuovo centrodestra? E poi questa frase che Renzi dice ai suoi, e lo racconta Maria Teresa Meli a pagina 8, siamo sempre nell'ambito dei retroscena, ormai si vive solo di questo nella politica, sui giornali. Renzi dice ai suoi: ragazzi, ci stiamo giocando tutto, la faccia e poi il resto. Verrebbe da commentare: il resto lo rischiano soprattutto gli italiani. Comunque è inutile girarci intorno, dice ancora Renzi ai suoi fedelissimi. Io ho 2 mesi di tempo, neanche 100 giorni, 2 mesi. O faccio qualcosa in quel lasso di tempo o la gente penserà che la politica non vale niente. In poche parole, se non ce la facciamo siamo morti. Adesso o mai più, ve lo ripeto perché possiate ricordarvelo tutti al di là delle lotte interne. Questa è la nostra ultima occasione, l'ultima per il PD senz'altro. Mi bastano 2 mesi di grandi riforme e il paese scorderà questo periodo buio, i malumori, le cose fatte male. 2 mesi. Questo continua a ripetere come un mantra Matteo Renzi ai suoi. Come racconta Claudio Cerasa nella sua analisi in prima pagina sul Foglio, il governo di Dorian Gray, questo è il titolo, scrive Cerasa, la storia di Dorian Gray la conosciamo tutti, un ragazzo di rara bellezza che grazie a un particolare patto col diavolo ottiene il privilegio di rimanere per sempre giovane e fare invecchiare non il suo corpo ma un magnifico dipinto che riproduce il suo volto. Senza voler forzare coi paralleli letterari, una delle missioni impossibili di cui dovrà farsi carico il quasi presidente del Consiglio non è così diversa dalla richiesta impossibile fatta dal protagonista del romanzo di Oscar Wilde: preservare la propria purezza, la propria giovinezza, la propria freschezza dall'inesorabile scorrere del tempo. Nel caso di Renzi, il patto col diavolo, il gesto da compiere, coincide con la necessità di poter passeggiare tra i corridoi di Palazzo Chigi senza avere il terrore di ritrovarsi all'improvviso col volto di Enrico Letta riflesso negli specchi e senza correre il rischio di appendere sui muri le foto della propria squadra di governo e scoprire che le caratteristiche dell'impareggiabile Renzi 1 non sono poi così differenti dalle caratteristiche che potrebbe avere un non impareggiabile Letta bis. E poi continua l'analisi, dice: l'altra battaglia la dovrà fare contro la burocrazia, una lunga analisi che trovate in prima pagina del Foglio, ma Claudio Cerasa la vede così: il governo deve fare come Dorian Gray, no? Cercare di andare lì ma preservare la propria freschezza, missione certamente difficile. Sentite cosa dice Renato Schifani, intervistato da Repubblica a pagina 6. Il nostro leader Alfano ci sarà di sicuro nel governo, è impensabile che non possa partecipare a un esecutivo del quale siamo alleati strategici. E poi parla, e questa è la frase che fa capire che è tutta questione di potere, lotte di potere, anche sulle riforme va sgombrato il campo dal sospetto che le riforme non siano serie. Per essere tali, cioè per essere serie, dice Schifani, la riforma elettorale e la riforma del Senato devono essere collegate tra loro. Cari italiani, traduco per voi questa frase: riforma del Senato e riforma della legge elettorale devono essere collegate, il che vuol dire che slitta tutto. Questo almeno per Alfano, tanto che il titolo dell'intervista è questo: il nostro leader ci sarà di sicuro e per l'Italicum tempi più lunghi. Cari italiani, è solo la 42esima settimana decisiva, fate con calma, verrebbe da dire, fate con calma. Tanto che addirittura Franco Bechis, perché poi il diavolo è sempre nella coda sul Libero, racconta in prima pagina, sempre per quel che riguarda le riforme, il trucco per Franco Bechis è questo: il trucco per salvare il Senato, una serie di senatori, primo firmatario Enrico Buemi, ma il provvedimento è stato molto trasversale, l'hanno firmato Luigi Marino, che ora è Popolari per l'Italia, Roberto Ruta del PD, Cinzia Bonfrisco di Forza Italia, Ulisse Di Giacomo del Nuovo Centrodestra, Serenella Fucksia del Movimento 5 Stelle, cioè un po' tutti quindi. Prevede che cosa? Un disegno di legge costituzionale di 15 senatori, dicono, eh no, prima del Senato, che costa meno, abolite la Camera. Si fanno la guerra così, che è il classico benaltrismo per dire non è da abolire il Senato, ma la vera delle due camere da abolire è la Camera dei Deputati. Libero titola: un'altra farsa, il Senato vuole tagliare la Camera, è il trucco per salvare tutti e due. Il disegno di legge costituzionale di 15 senatori per sacrificare Montecitorio costa il doppio di noi. Verrebbe da dire che ci sono anche molti più deputati e quindi molto più personale che al Senato. In realtà è una minaccia a Renzi, e cioè se tocchi la casta ti impaludiamo. Questo almeno è la lettura di Libero di Franco Bechis. Vabbè, non è finita la questione politica, ma intanto voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Eccoci, buongiorno, qua. Buongiorno Alessandro. Eccoci. Buongiorno. Allora, che ci abbiamo sul Sole, a parte la politica, mi ha molto incuriosito l'apertura, e cioè la Spending Review, le analisi di Cottarelli sugli statali. Questo interessa molti nostri ascoltatori. Questo sì, perché nei dossier, ne sai che c'erano 25 task force di, sì, Cottarelli, no? Ma sostanzialmente qui c'è una cura abbastanza pesante su tutto il settore pubblico, perché come riassume poi Rogari all'interno, sostanzialmente ci sono previste più mobilità per coprire i vuoti di organico, una dismissione feroce delle società partecipate. Ieri scrivevamo, ti ricordi, ci sono le partecipazioni sotto il 4% della proprietà, non è che si capisce a cosa servono, un po' di tagli alle auto blu, che però devo dire una volta tanto non sono in cima alla lista, nel senso che Incidono poco rispetto al resto. Ecco, esatto, questo volevo dire, cioè è giusto per carità intervenire, ma non sono poi la nostra prima voce di spesa, e naturalmente tutto un sistema di semplificazione della centrale acquisti. Tutto questo sembra, come dire, molto coerente come disegno, vedremo appunto se si riuscirà poi a portarlo a termine. Qui non si ha ancora notizie di disegni di legge anti Cottarelli, però non so se ci saranno in qualche modo. Sempre, bisogna mai fidarsi di qualche piccolo subemendamento. No, anche perché ci sono un po' di tensioni sulle riforme precedenti. Raccontiamo il disagio degli avvocati nelle pagine, poi nelle pagine interne, insomma gli avvocati segnalano, a parte il loro malessere, con una categoria che fatica veramente, specialmente nei giovani, a guadagnare, a trovare clientela, proprio a trovare lavoro. E poi segnalano che la giustizia, il costo della giustizia è fortemente aumentato. Avevamo scritto anche diverse volte sul Sole 24 Ore, effettivamente oggi accedere alla giustizia è diventato più caro, tra l'aumento delle imposte di bollo e quant'altro, insomma è vero che costa più caro andare in tribunale, andare in lite. E questo scoraggia anche l'avvocato. Senti, però hai un mese in più per sanare le tue vecchie multe, le tue vecchie cartelle di Equità, fino a fine marzo c'è stata una modifica, quindi fino al 31 marzo puoi sanare le tue vecchie multe, le vecchie cartelle, tutti i particolari in norme e tributi. È chiaro. E attenzione che stanno aumentando i comuni con la tassa di soggiorno, racconta Imprese e Territori, nelle pagine di Imprese e Territori, quindi c'è stato un aumento di comuni con la tassa di soggiorno. Me l'ero già dimenticata, l'abbiamo come dire sublimata questa tassa di soggiorno. Abbastanza metabolizzata, e giustamente ci viene ricordata che aumentano i comuni, e quindi rispunta: ah, è vero, c'è anche la tassa di soggiorno. E sai, i comuni in qualche modo subiscono i tagli dal centro, e quindi sono costretti a scaricare poi sul turista, sul passante. Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Ciao transeunte, ci troviamo domani. Domani. Lunedì. Oggi è venerdì. Ma c'è il campionato, Alessandro? C'è il campionato, c'è anche la Champions League. Ma forse non c'è il campionato. Non lo so, infatti forse non lo so. Lunedì vediamo se c'è il campionato. Caro Mauro, grazie, a lunedì. Intanto il traffico. La carta costa e io pago. Certo. Allora, alle 7:47 minuti c'è la vicenda poi di Beppe Grillo, dopo le polemiche per lo streaming con Matteo Renzi, con i commenti anche in alcuni casi urticanti nei confronti dell'atteggiamento di Beppe Grillo, mentre molti del movimento dicono no, ha fatto bene, esattamente quello che doveva fare. C'è quello che in molti giornali definiscono la gogna web per i senatori anti Grillo. Ci sono le foto sul blog di Battista, Bocchino, Campanella, Orellana, accusati di una sorta di fuoco amico, rischiano l'espulsione dal movimento. Beh, c'è da dire che invece in campo PD c'è qualcuno che più che l'espulsione rischiarla la evoca, è Civati, Giuseppe Civati, che riesce sempre a essere sulle prime pagine dei giornali e in questo caso dice: non so se voterò la fiducia al governo Renzi, e fa lui stesso un passo successivo dicendo: e chi non vota, e se non voto la fiducia al governo Renzi, chissà se posso rimanere nel Partito Democratico. Insomma, ci sono anche piccoli movimenti numerici all'interno dei partiti che però sono da segnalare anche questi. Io voglio aprire la pagina internazionale con gli articoli, tanti articoli dedicati alla vicenda ucraina. Noi la affronteremo poi alle 8:30, il giorno del massacro a Kiev, missione disperata dell'Unione Europea, così pagina 5 del Sole 24 Ore, Antonella Scott. Tra l'altro ci sono, con Beda Romano subito sotto, le sanzioni mirate che sono state erogate da Bruxelles, anche se ci si interroga se sia giusto o se sia troppo poco, troppo blando l'intervento dell'Europa. Lo chiede per esempio Luigi Offeddu sul Corriere della Sera, pagina 5. L'Europa punisce il regime, la lista con i nomi dei responsabili ci sarà oggi, sia le sanzioni, ma questo e non molto di più può fare oggi l'Europa, perché solo 3 mesi fa diceva benvenuti agli ucraini europeisti, facendo loro credere che molte porte fossero già aperte, che i ruggiti di Putin fossero solo biagolii e i gasdotti nelle sue mani solo canne vuote, e loro, moltissimi ucraini, si sentirono invitati, ci credettero, accettarono l'invito, ma non era così, come scrive il Corriere. Le porte non erano aperte, Putin non miagolava, e lo si vede ora che anche un inviato russo, Vladimir Lyukin, arriva nella Kiev in fiamme e dice: le sanzioni dell'Europa sono un ricatto, perché le responsabilità dell'eccidio sono di quegli occidentali che hanno tentato un colpo di Stato contro Yanukovych e i suoi. Continuano delle testimonianze molto intense sul secolo XIX, Victoria Titarenko, una cittadina ucraina che racconta dalla Kiev in fiamme ancora oggi a pagina 3: ho visto sparare su ragazzi protetti solo da un caschetto. Racconta di questa testimonianza: stanotte siamo usciti con Yura, mio figlio più grande di 22 anni, per andare all'ospedale del quartiere, cercare di portare da noi qualcuno dei feriti più leggeri delle altre città, lasciando il posto ai più gravi. Abbiamo preparato una stanza, anche le cliniche private, quelle dei ricchi, hanno aperto le loro porte, accolgono tutti gratuitamente. Non si sa come siano riusciti a superare i blocchi, ma in città sono arrivati medici volontari dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, per dare una mano. La città è irriconoscibile, distrutta, c'è guerriglia ogni angolo, cadaveri nelle strade, gli unici rumori che si sentono sono gli spari e le sirene dell'ambulanza. E poi i cecchini, ricorda l'ex Jugoslavia, cari ascoltatori, i cecchini: uno si è piazzato in cima all'albergo ucraino e si è messo a fare il tir a segno contro le persone, le auto, le ambulanze. I ragazzi si proteggono coi caschi delle moto, con scudi improvvisati o quelli presi alla milizia, ma i morti aumentano e nei nostri cuori c'è la disperazione. Insomma, questo è il segno della testimonianza di Victoria Titarenko, che trovate a pagina 3 del secolo XIX. Noi ci collegheremo con l'Ucraina, con un giornalista, Savik Schuster, molto esperto, che conduce un programma televisivo anche molto apprezzato in Ucraina. È un cittadino che ha il passaporto italiano e canadese, anche se nato nell'ex Unione Sovietica. E sentiremo la sua voce, la sua testimonianza alle 8:30. In tutto questo, che cosa dobbiamo raccontare ancora di cronaca? Vi racconto che dopo l'articolo di Umberto Veronesi su Repubblica viene rilanciato il dibattito un po' stantio, ma che insomma viene rilanciato, come spesso accade quando c'è un articolo, poi dai grandi commentatori, e sulla questione della cannabis, la legalizzazione. Bisogna usare questo termine, non liberalizzazione, ma legalizzazione della cannabis. L'appello di Veronesi divide l'Italia, Vladimiro Polchi su Repubblica, i pareri a favore e contrari sulla legalizzazione della cannabis. C'è anche un articolo ancora su Maradona, il fisco, sulla stampa, due sponsor pronti a pagare la vertenza. Pare che il PIB de Oro sia pronto a pagare il 28 febbraio 11.687.521,66 euro, risparmiando così sulla multa totale 27.856.519,67 euro. Ieri c'è stato il faccia a faccia con Equitalia, nonostante lui dica io non sono un evasore, attraverso il suo avvocato Pisani, racconta Guido Ruotolo sulla stampa, è pronto a pagare, a transare una sorta di sanatoria, 11.687.521,66 euro che potrebbero entrare nelle casse italiane per chiudere questa vicenda. Siamo finalmente all'articolo conclusivo, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, oggi rivince grazie alla segnalazione che mi è arrivata ieri su Twitter. Si sono autodenunciati al Messaggero, oggi vince Mario Aiello, pagina 8 del Messaggero, la mappa del potere renziano a Roma in base a che cosa? I ristoranti. Dove fa l'aperitivo? Dove va a mangiare? La nuova Roma renziana, dem, glamour e trattorie. Dove fa l'aperitivo Renzi? Dove alloggia Renzi e dove alloggiano i renziani? Dove spizzica la pizza? Dove va in trattoria? Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? La carta costa! Dai che lo sapete! Dai! Il giornale radio.